figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buona giornata a tutti da Valentina Furlanetto. È arrivato oggi a conclusione l'iter per la beatificazione di Don Carlo Gnocchi, avviato nel 1986, 30 anni dopo la sua morte, dall'arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini. Don Gnocchi veniva chiamato anche il prete alpino, rimase orfano in tenerissima età, divenne sacerdote e seguì appunto da volontario gli alpini nelle campagne d'Albania, di Grecia e nella terribile campagna di Russia. Nel dopoguerra iniziò a occuparsi dei bambini mutilati, aprendo dei collegi in tutta Italia. Morì nel 56 dopo aver donato le cornee, quando i trapianti in Italia, pensate, erano ancora illegali. E quindi con il suo gesto aprì la cultura delle donazioni in Italia. Ma soprattutto fu un prete che credeva ancora più che in Dio, nell'uomo e nella capacità dell'uomo di cambiare il suo destino. Abbiamo parlato di Don Gnocchi con Vincenzo Russo, autore del libro «Se il destino è contro di me, peggio per il destino», edito da Mursia. Vincenzo entrò nel collegio di Don Gnocchi all'età di 5 anni. A 2 anni e mezzo io sono stato portato il Gaslini di Genova, sono stato lì un paio d'anni, 1 anno e mezzo, quasi 2, poi sono tornato per un breve periodo a casa e dopodiché sono partito per la mia avventura della Don Gnocchi. 5 anni circa sono entrato nella fondazione Don Carlo Gnocchi e vi sono rimasto sino a 27 anni, quando ho trovato casa e quindi formalmente sono andato via dalla Don Gnocchi, formalmente. In realtà questo cordone ombelicale, per varie circostanze, non si è mai sciolto, non si è mai tagliato. Ancora oggi collabora con la Fondazione? Sono docente per quanto riguarda i corsi di laurea breve e di educazione professionale presso la Fondazione Don Carlo Gnocchi. Lei lo ricordava, è entrato nel collegio a 5 anni. Qual è stato il primo impatto per un bambino così piccolo con il collegio? È stata una grossa sofferenza da una parte, però devo anche riconoscere che, come dicevo nel libro, io sono stato nutrito, allevato, accudito, senza nulla togliere al dolore, alla sofferenza della mancanza soprattutto della mamma. Io ho sempre avvertito l'intento, l'attenzione, la cura, farsi carico della consapevolezza di quale dolore comunque vivevamo noi ragazzi costretti ad andare via dalla famiglia. Che ricordo ha di Don Gnocchi? Nel libro io racconto un episodio che è quello di questa mano, di questo sacerdote che improvvisamente entra in questa stanza dove noi tutti bambini eravamo in attesa. Ricordo molto bene il volto di una suora, Suor Flora, e questo sacerdote che entra. Io credo che fosse Don Carlo Gnocchi, però dato che avevo 5 anni non posso giurarci che fosse Don Carlo Gnocchi, però ho un ricordo di Don Carlo, di colui che mi dice: possiamo scommettere sul futuro, nonostante le gambe che non ci sono, possiamo scommettere sul futuro. E poi una cosa molto importante, il concetto di dignità che ho assorbito, ho annusato in tutti gli anni della Don Gnocchi, questo concetto, questa necessità, questo valore di essere leali con se stessi, il dovere di essere leali con se stessi ancorché prima che con gli altri. E questo mi insegnava Don Carlo e mi ha insegnato la vita all'interno della Fondazione Don Gnocchi, si chiama dignità. La differenza in fondo tra sconfitti e perdenti, te la puoi giocare. Ecco, Don Carlo mi ha insegnato attraverso l'opera, attraverso i messaggi, attraverso le parole che ho letto e vi dicendo, che me la potevo giocare alla pari e che potevo scommettere su di me. Don Carlo non gli interessava, lo diceva apertamente, non è sufficiente recuperare la parte funzionale dei nostri ragazzi se non accompagniamo il recupero della persona, dell'interezza, dell'intierezza della persona. Facciamo un buco nell'acqua se ci limitiamo a mettere due protesi, a mettere il gesso, a far camminare, a far mangiare da solo una persona. E lì il vero il vero punto strategico del messaggio di Don Carlo, l'aver intuito attraverso questa visione folle e visionaria che la persona o la si recupera tutta nella sua interezza oppure noi abbiamo fallito la nostra missione educativa. Il libro è molto commovente, è anche scritto in forma di lettere al fratello Claudio, un bambino nato bellissimo, simpatico, sano soprattutto. Paradossalmente però ha avuto rispetto a lei un destino molto peggiore per sua stessa volontà, perché appunto era dipendente dalla droga. Però questo libro è anche molto allegro, parla degli anni 60-70, di questo desiderio di una persona che aveva sì delle difficoltà, ma che voleva anche indossare le maglie a fiori, fare la rivoluzione. Non ho mai sofferto, come dire, di musoneria. Ho fatto parte di un gruppo musicale mentre ero lì al Dognocchi, eccetera, la camicia a fiori, la rivoluzione e poi questa ingordigia di vita, questa sete insaziabile di vita che la Milano degli anni 70 e in parte degli anni 80 mi ha consentito vivere, perché quando poi incontro questo personaggio che nel libro cito, Padre Giacomo, che mi scaraventa nel mondo in qualche modo e mi dice: adesso te la devi vedere tu, devi camminare con le tue gambe, che poi era, risuonava dell'eco di quel messaggio di Don Carlo fondamentale: ce la si può fare, ce la si può fare. E ora invece parliamo di una signora di 60 anni di Ostia che suo malgrado è la protagonista di una storia di abbandono e di incuria davvero incomprensibili nel 2009. Maria è malata di SLA e vive in una casa popolare di 50 metri quadrati assieme ad altri 4 familiari, pensate 5 persone in 50 metri quadri. La signora è immobile a letto, tra l'altro la bombola d'ossigeno che l'aiuta a sopravvivere si trova, date le dimensioni della casa, pericolosamente vicina al gas della cucina. La figlia Alessandra ha denunciato la situazione, ha chiesto aiuto al comune e ai servizi sociali, ma finora non ha avuto risposta. Fare la mamma, cioè cucinare, mandare i bambini a scuola, via dicendo, e in più accudire lei, quindi cambiarla, organizzarci quando da fare il bagno, i capelli. Io chiedo un'assistenza domiciliare e una casa un po' più grande. Perché ho fatto tutte e due le pratiche, ma mi hanno detto che c'è un'attesa lunga. Cioè, se questo è vivere, non lo so. Alessandra ha come unico aiuto un'infermiera che passa ad aiutarla 5 minuti al giorno. L'associazione Viva la Vita, che sta aiutando questa famiglia, ha deciso di denunciare il comune per omissione d'atti d'ufficio e omissione di soccorso. E ora cambiamo argomento, è stata inaugurata ieri a Milano la mostra Il disegno più lungo del mondo nella sala Chagall del Palazzo delle Stelline, aperta fino al 31 ottobre dalle 10 alle 19 in ingresso gratuito. Si tratta di 150 disegni che illustrano gli articoli della Convenzione ONU sui diritti per l'infanzia e sono proprio i bambini ad aver realizzato questi disegni. All'iniziativa partecipano COPI, Cooperazione Internazionale, VIS, Volontari per lo Sviluppo e la cooperativa EOS, Ippogrifo Azzurro. Sentiamo allora per EOS Luciana Versolatti. Sono stati selezionati disegni che poi di fatto su questa struttura molto particolare diventano il disegno più lungo del mondo. Sono 100 disegni che illustrano ciascuno un articolo e quindi di fatto è il disegno più lungo del mondo. Ecco, lungo anche perché ha questo duplice significato, che oltre a bambini dell'Europa, quindi a bambini italiani, ha partecipato una classe peruana, una classe del Centrafrica e una classe della Palestina, quindi i continenti sono l'America, l'Africa, Medio Oriente, diciamo, e l'Europa. È un disegno che per la prima volta viene costruito su queste distanze, quindi è il disegno più lungo del mondo proprio anche per quello, perché percorre questi quattro continenti. Anche oggi grazie per essere stati con noi, vi rinnovo l'appuntamento per domenica prossima alle 14:15. Una buona settimana a tutti da Valentina Furlanetto.